Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Quando è arrivato, non mi ha avvisato subito. Non sapevo neanche che l'attico, il mio attico, fosse in affitto. Lui è entrato tanto tempo fa, come un ladro. L'ho scoperto da poco, dopo tanti anni. Non ha scassinato nulla, non ha dato nessun segnale di sé all'inizio. Abbiamo vissuto nello stesso palazzo senza incontrarci mai, senza che io sospettassi nulla. Deve aver usato delle chiavi false. Non ha mai fatto rumori. Non ha mai acceso lo stereo di notte come fa adesso. Non ha tentato azioni di forza e di prepotenza. Quelle stesse azioni che adesso me lo fanno odiare. Ecco, non ha neanche sputato nell'ascensore. Allora non volevo uscire allo scoperto. Così come adesso mi manda solo minacce velate, senza parlare mai in modo chiaro. Che bel vigliacco che è. Buongiorno da Nicoletta Carbone, ma di chi stiamo parlando? Di un inquilino, anzi dell'inquilino dentro, titolo di un libro di cui voglio parlare con voi insieme ai suoi autori che sono in linea, Francesco D'Antuono e Giovanni Piazza. Benvenuti. Buongiorno, grazie Nicoletta. Francesco, ha un nome questo inquilino? Sì, il signor P è il Parkinson. Io ho il Parkinson da circa 6 anni, diagnosticatomi circa 6 anni fa, anche se mi dicono che già al liceo io tremassi con una mano. E l'ho scoperto così quando una mattina di 6 anni fa non sono stato in grado di lavarmi i denti. E mi sono preoccupato, sono andato subito da un neurologo che mi ha consigliato una risonanza magnetica. E da lì sembrava che io avessi all'inizio la sclerosi multipla, e dopodiché invece mi hanno diagnosticato il Parkinson e la mia vita è cambiata. Io mi sono chiuso in me stesso, non volevo uscire di casa, litigavo con tutti, sa, avere una mano che ti trema, perché a me fondamentalmente trema la mano destra. Avere una mano che ti trema non è bella, la gente pensa qualunque cosa, sei giovane, io ho 41 anni. E quindi ci rimani male con te stesso, nei confronti degli altri, perché dici perché proprio a me. Poi un giorno io ho deciso di uscire allo scoperto, ho scritto un articolo su un giornale locale in cui dicevo io ho il Parkinson, la mia vita è una vita di sofferenza, io cerco di vivere bene perché ho ancora tanti anni davanti a me e quindi mi sono dato da fare. L'attico, in realtà, è la parte più preziosa di me, il mio cervello. Ascensore e impianto elettrico sono i miei trasportatori della dopamina. Il palazzo che trema senza fermarsi mai, sono io. E a farmi tremare è il signor P. Giovanni, il libro non è un'autobiografia né un trattato sul Parkinson. In fondo questo personaggio che ha occupato abusivamente l'appartamento potrebbe essere chiunque, qualsiasi cosa, una persona che ci dà fastidio, un problema che si è impadronito di noi e ci fa vivere male. Il signor P è il Parkinson, ma è anche altro, Giovanni, la precarietà, i problemi di ogni giorno, la paura. Ma pure il signor P, come tutti i signor P, ha una sua funzione ben precisa, di cui voi parlate nel libro. Sì, quando abbiamo cominciato a scrivere, quando abbiamo cominciato a parlare, a far nascere l'idea di raccontare una storia, Francesco mi raccontava delle sue vicissitudini, dei suoi momenti complicati, personali, quotidiani, però io pensavo invece agli accidenti della mia vita, li descrivevano, le parole di Francesco descrivevano bene anche quello che stava capitando a me per altri motivi. E quindi abbiamo capito che questo signor P poteva anche essere la metafora di qualsiasi altra cosa che potesse rappresentare un ostacolo nella vita. Abbiamo capito che però questo ostacolo può avere una funzione, non soltanto quella di fortificare, ma anche quella di parlarne agli altri, di far capire che non vale per sempre e per tutti il canone di normalità, che ognuno di noi ha una sua individualità irripetibile, che noi dobbiamo tutelare, proteggere e comunicare. Oh, Giovanni. Certo, la cosa più importante è questa, parlarne, vivere proprio per raccontarla, direbbe Garcia Marquez. Sì, era importante farlo sapere, era importante far capire che c'erano questi guai e che potevano comunque diventare qualcos'altro, che potevano essere anche una ricchezza, non soltanto un problema. Ecco, e su questo stimolo che io invito i miei ascoltatori a intervenire all'800 24 0024, a quel signor P, che può essere il Parkinson ma può essere altro. I messaggi al 349-238-6666. Francesco, tra l'altro, proprio sabato 27 novembre si celebra la seconda giornata nazionale della malattia di Parkinson, che ha come slogan: se anche il ritmo cambia, la melodia continua. Cosa dice a te questa frase? Beh, questa frase mi fa venire in mente il tremore. Il tremore che ha preso la mia vita da tanto tempo. E io non mi ricordo più quando è che non tremavo, insomma. Non riesco a prendere la tazzina del caffè con la mano destra, io sono di origini napoletane e a me piace tanto il caffè. E non riesco delle volte ad allacciarmi le scarpe, però continuo, io ne voglio far parlare. Di Parkinson non se ne occupano in tanti. E io, perché la gente, sentendo parlare di Parkinson, cambia canale. Sì, è vero. È una cosa coraggiosa parlarne oggi. Sì, è veramente una cosa coraggiosa. Io conosco un noto personaggio dello spettacolo e un giorno se vanno i medici in TV tutti li ascoltano, se vanno i malati che tremano o che hanno dei blocchi o tutte quelle manifestazioni del Parkinson, la gente cambia canale. Io ho chiesto a questo personaggio se mi faceva partecipare ad una sua trasmissione e lui mi ha detto: ma che sei matto, io scendo, se porto te in trasmissione scendo sotto al 3%, mi chiudono il programma. Bene, speriamo che non ci chiudano, noi continuiamo a parlare per fare informazione. Certo, io sono contento di avermi invitato a questa trasmissione. Io ne voglio far parlare, perché finché era vivo il Papa se ne occupavano tutti. Adesso sembra che questa malattia non interessi a nessuno. Noi nel libro scriviamo perché ce l'hanno i vecchi, soprattutto le persone anziane che hanno già la cataratta, l'artrosi e quindi un acciacco in più, un acciacco in meno, cosa volete che cambia? Invece le statistiche dicono che sono tanti i giovani che prendono il Parkinson e quindi farne parlare per me è importante. Mi sento meglio quando ne parlo. Giovanni, e questo ci fa piacere, Francesco. Giovanni, tu che hai scritto a quattro mani con Francesco questo libro, che cosa hai imparato? Come ti ha cambiato? La scrittura cambia sempre. Ma a te che effetto ha fatto? La prima cosa che ho imparato è quanto sia evidentemente balorda l'idea che tutti dobbiamo uniformarci a un canone di normalità valido sempre per tutti. Poi ho imparato pure quanto sia bello fare fruttare anche quelli che sembrano guai. Un modo per esempio è il sorriso, il che non significa che dobbiamo prendere le cose sotto gamba, ma con leggerezza. Del resto la prefazione del libro è di Marco Presta, un grande umorista italiano. Giovanni, io ti saluto e ti ringrazio per essere stato con noi. Ricordo il titolo del libro, L'inquilino dentro, di Francesco D'Antuono e Giovanni Piazza. Francesco, invece, tu rimani con noi. Grazie, arrivederci. Giovanni, grazie a te, perché noi torniamo al signor P. Nel vostro libro è un personaggio reale, alla moda, impeccabile, abbronzato e rampante, al punto giusto, ma per un medico, chi è questo signor P? In linea con noi abbiamo il professor Stefano Ruggeri, ordinario di neurologia Sapienza Università di Roma e primario del Dipartimento di Neurologia all'Istituto IRCS Neuromed a Pozzille nel Molise, un centro monospecialistico dedicato esclusivamente a neurologia, neurochirurgia e neuroriabilitazione, dove operano appunto in sinergia la ricerca scientifica e l'attività clinica. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. E in linea abbiamo anche il dottor Nicola Modugno, neurologo, responsabile del centro Parkinson di Neuromed e presidente dell'associazione Onlus Parkinson, dove c'è anche, che ha anche un sito. Dottor Modugno, grazie per essere qua con noi. Buongiorno, grazie a lei. Allora, io vi farei ascoltare una breve scheda, però direi cerchiamo di capire prima di che cosa stiamo parlando. Professor Ruggeri, ci dà una definizione di Parkinson? Sappiamo che è una delle più frequenti malattie neurologiche ed è caratterizzato da disturbi del movimento. Sì, guardi, la cosa più importante da pensare è che questo movimento non è un movimento volontario, ossia se una persona vuole, avendo il Parkinson, prendere una penna, lo può fare tranquillamente, ma l'automatismo che porta la sua mano fino alla penna è alterato. E siccome l'automatismo della motrice, del movimento è il 90% del movimento stesso, è chiaro che un impedimento grosso ad ogni tipo di manifestazione motoria ce l'ha durante la giornata, quindi da quando si alza a quando va a dormire. Quindi non è paralizzato, ha soltanto una difficoltà nel movimento, perché buona parte di questo non è più controllabile, o quantomeno non è più diciamo così fluido come era prima. Professore, la lucidità mentale della persona però permane. Sì, permane bene, in alcuni casi forse un pochino meno, perché all'interno della malattia di Parkinson c'è un grosso calderone di altre sindromi molto vicine alla malattia di Parkinson, alcune delle quali hanno invece anche una perdita dei processi cognitivi, ossia delle funzioni della memoria e funzioni del ragionamento. Dottor Modugno, quindi ci sono più signor P, o questo signor P è un tipo trasformista? Beh, se ascoltiamo già quello che ha detto il professore, è un tipo trasformista, nel senso che c'è una malattia di Parkinson che si manifesta con una sua forma classica e tante piccole varianti che possono rappresentare le varie modificazioni del signor P, e che tutte creano un diverso grado di disabilità ai diversi pazienti. Professor Ruggeri, chi dice Parkinson pensa al tremore, lei l'ha già descritto, ma di che tremore parliamo? Perché arrivano già i messaggi al 349-238-6666 e gli ascoltatori naturalmente vogliono saperne di più. Ci sono dei segnali proprio caratteristici, Francesco ci ha raccontato che ha avuto la prima volta proprio difficoltà anche a lavarsi i denti e si è recato dal medico, la diagnosi all'inizio era incerta. Professore. Sì, il tremore non è il segno più importante per riconoscere la malattia di Parkinson, è un segno collaterale che nasconde altre malattie come il tremore essenziale, come il tremore dell'ipertiroidismo, quindi non viene preso come l'elemento determinante e cardinale per la diagnosi. Altri sono i segni, sono la lentezza del movimento e la rigidità soprattutto, questi due sono gli elementi diciamo che svelano quello che è il Parkinson. D'altra parte, dal punto di vista diagnostico, la diagnosi è totalmente clinica, quindi tutti gli strumenti che noi abbiamo sono degli strumenti che ci danno un aiuto per fare diagnosi, ma poi la diagnosi finale è sempre legata a un clinico che conosce bene la malattia di Parkinson. Andiamo a Latina, c'è Massimiliano 800240024, benvenuto. Sì, buongiorno. Senta, io volevo fare una domanda al professore, volevo chiedere: il Parkinson è una malattia, ma come si può evitare di prenderla? In senso, non so se è lucida la domanda, come per dire, l'AIDS la prendi se c'hai un rapporto non protetto oppure usi una siringa di un altro. Il Parkinson, c'è qualche cosa da evitare per non poterlo prendere, o è una malattia che ti viene... È questo inquilino che viene a vivere con te. Professor Ruggeri. Purtroppo l'inquilino nasce insieme alla persona, nascono tutti e due nello stesso giorno, nello stesso momento, nella stessa ora, e l'inquilino incomincia lentamente a manifestarsi perché l'alterazione genetica che lui ha si manifesta con una certa, ossia a un certo periodo di tempo prima che diventi veramente presente. E quindi non c'è nessuna trasmissibilità tra una persona e un'altra, non c'è nessuna infezione virale così come l'AIDS, è proprio un'alterazione di una componente genetica che causa la morte di alcune cellule molto importanti per quanto riguarda il movimento e per quanto riguarda la trasmissione della dopamina. Francesco, tu avevi casi in famiglia? Io ho un cugino in famiglia che ha il Parkinson. L'ho scoperto poco tempo fa, lui ce l'ha, anche lui, il mio cugino ce l'ha 47-48 anni, ma io ero piccolo e lui già tremava con le mani e nemmeno là si è capito subito che fosse, gliel'hanno diagnosticato dico 5 anni fa, dopo di me praticamente. Dottor Modugno, quanto conta la, tra virgolette, familiarità? Beh, la familiarità conta quando all'interno di una famiglia si verificano più casi di malattia, quindi c'è una chiara ed evidente trasmissibilità da un grado di familiarità ad un altro, quindi parliamo di bisnonni, nonni, cugini di primo, secondo grado, fratelli, sorelle, eccetera, eccetera. E in questi casi talvolta è stato possibile negli ultimi anni proprio evidenziare le anomalie genetiche che hanno portato alla definizione di alcune forme di sindrome parkinsoniane geneticamente determinate. In altri casi purtroppo la familiarità non ha mai portato all'evidenza di un gene alterato, cioè ci sono stati dei casi presenti all'interno della stessa famiglia, quelle famiglie sono state geneticamente testate ma non è stata evidenziata alcuna anomalia nel DNA. Quindi si presuppone che ci sia una grande importanza della familiarità, però ovviamente siamo in una fase in cui stiamo scoprendo le anomalie genetiche principali che possono causare delle forme di Parkinson. Professor Ruggeri, prima si pensava che fosse una malattia e veniva spesso confusa, no? con altre malattie, si diceva è una persona anziana e allora, no? Un po' stramba, trema. Adesso anche il caso di Francesco lo dimostra, vediamo che l'età di insorgenza si è abbassata. O è sempre stato così e non avevamo così il modo di diagnosticarla? Che cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa? Mi scusi, prima volevo correggere un'espressione, perché sennò si ha la paura che la trasmissione genetica sia un'alterazione genetica trasmissibile geneticamente. Mm. Invece noi tutti, quando nasciamo, abbiamo sempre degli errori genetici che ci modificano da quella che è l'aspetto familiare, ossia che la genetica dataci dai nostri genitori, e questi errori genetici qualche volta capitano a livello del Parkinson, altre volte possono causare un'altra malattia che nella famiglia non era mai stata presente, ma questi errori genetici sono errori che in tutti quanti noi sono presenti. Mi sembra che il messaggio sia arrivato chiaramente. Riguardo all'età dei pazienti, io, professore, devo fermarla perché devo dare la linea al mercati e al meteo, e ritorniamo subito dopo insieme con il professor Stefano Ruggeri, il dottor Nicola Modugno e Francesco D'Antuono, l'inquilino dentro. Siamo tornati, se il signor P viene a vivere con noi. Il signor P è il Parkinson, e io, prima di continuare a parlarne con i miei ospiti, vorrei farvi ascoltare una lettera. Alcuni giorni fa ho ascoltato la sua trasmissione in cui c'era Pupi Avati come ospite. Ha suscitato in me molte emozioni, ma anche tante domande. Ricordo che quando ero piccolo viveva con noi una bisnonna ultra ottantenne. Il suo comportamento era bizzarro, imprevedibile. A volte divertente, a volte mi faceva paura. In più, lei tremava tutta. Nessuno a quei tempi parlava di morbo di Parkinson e morbo di Alzheimer. E io sono cresciuto con la convinzione che la nonna avesse l'arteriosclerosi. Mia mamma, quando le chiedevano come stava sua nonna, diceva che era un po' sclerotica, ma per il resto tutto bene. Ora però che sono negli anta, mi domando: e se invece il nome corretto del problema della mia bisnonna fosse stato una delle patologie che oggi chiamiamo con questi nomi, ovvero Parkinson e Alzheimer? E se nella mia famiglia ci fosse una predisposizione a questa tipologia di problemi? Cosa devo fare per togliermi questi dubbi? A chi rivolgermi? E per chiedere che cosa? Queste malattie degenerative sono tra loro correlate e associate, oppure sono due cose completamente differenti? Spero possiate dedicare di nuovo una puntata a questo tema per aiutarmi a trovare le risposte. Questa è una delle tante lettere arrivate in redazione. Professor Ruggeri, segno che c'è bisogno di fare informazione. Ci sono proprio delle domande che noi ci facciamo sentendo parlare di malattie, sentendo storie di amici, di persone vicino a noi che ne sono affette. In parte abbiamo già risposto ai quesiti del nostro ascoltatore, ma sicuramente possiamo aggiungere ulteriori dettagli. Professore. Allora, ormai conosciamo che ci sta una genetica all'interno del Parkinson, ci sono quasi 20 loci differenti che sono stati riconosciuti come parkinsonogenesi, ma in realtà questo non ci permette di poter dire: tu sei malato di Parkinson, questo potrà essere trasmesso a qualcuno dei tuoi figli o il tuo padre, cioè a Parkinson, tu comunque avrai il Parkinson. Una cosa praticamente impossibile, non soltanto impossibile, ma anche non valutabile clinicamente, perché poi in realtà il tutto ci serve fino a un certo punto. La diagnosi giovanile perché? Perché una volta nel 1970 la diagnosi di Parkinson veniva fatta in maniera estremamente più banale attraverso sintomi che non prevedevano la comparsa di altre malattie simili a Parkinson. Non esistevano strumenti. Adesso che è più semplice e più complesso la diagnosi di Parkinson, ci siamo spostati verso il Parkinson giovanile. Però nel 70 le diagnosi errate erano il 30%, adesso sono soltanto il 6%. Francesco, tu sei giovane e sei malato di Parkinson. Se dovessi dare così un voto alla tua quotidianità, come stai vivendo con questa malattia? Come riesci a farle fronte? Tu hai scritto sicuramente l'aver avuto il coraggio di raccontarla, di parlarne. Il libro è anche molto divertente, ironico, e quindi questo sicuramente è un aspetto, no, che ti ha aiutato a fronteggiarla. Ma vorrei sapere da te, nel quotidiano, nella relazione con i tuoi familiari, con i tuoi colleghi di lavoro, come sta andando? Ma adesso va senz'altro meglio. Ci sono stati momenti peggiori, molto brutti, che non vorrei che non li passasse mai nessuno. Io ho le mie difficoltà. Ripeto, non riesco a fare tante cose, devo avere un incontro importante, magari mi emoziono, vado in ansia e mi trema la mano, ma oramai vivo in una comunità dove lo sanno tutti e quindi io la vivo bene, io non mollo. Ho parlato un po' di tempo fa con il dottor Modugno e gli ho detto: io ti do 5 anni per darmi la cura, per trovare la cura al Parkinson. Ne sono passati già 3, quindi lui ha 2 anni a disposizione per far guarire tutti i malati di Parkinson da questa malattia, che quando io sono stato intervistato da Canale 5, quando sono venuti mi hanno detto: ma che cos'è il Parkinson? Io ho detto: è una malattia stupida, perché alla fine non toglie anni alla vita, ma cerca di togliere, cioè non toglie vita agli anni alla vita, ma cerca di togliere vita agli anni. Quello che intendo io è che il Parkinson non ti fa morire, ma ti fa stare male, e quando stai male cambiano radicalmente tutte le tue abitudini di vita. E io ho reagito e spero che lo facciano tutti. Guardi, le posso dire un'ultima cosa? Ma certo. Io sono stato ricoverato alla Neuromed. Sì. Quando sono entrato là dentro, era un reparto dove erano tutti i parkinsoniani. Certo. Io ho conosciuto un signore che si nascondeva la mano parlando con me. A me mi è venuto spontaneo dirgli: ma perché nascondi la mano? Lo sappiamo qua dentro che siamo tutti parkinsoniani. Magari fuori ti vuoi nascondere e sbagli. Però... E proprio a questi pazienti, dottor Modugno, sono dedicati questi laboratori. È sicuramente un progetto molto interessante di cui vorrei parlare con lei e con il professor Ruggeri. Arte, recitazione, espressione corporea. Che cosa avete messo in piedi per aiutare anche il paziente a gestire meglio la malattia? Dottore. Come ha capito, penso, dalle parole di Francesco. Sì, lei ha ancora più 2 anni, stanno scadendo i 5 anni, ne ha più solo 2. Chiediamo aiuto anche al professor Ruggeri. Però grazie. Lavorate per assicurare una qualità di vita, sì, al paziente, per quella vita agli anni di cui Francesco diceva appunto che il Parkinson invece tende a portare via. Infatti, come può capire dalle parole di Francesco, una delle problematiche principali dei pazienti è quella di non riuscire a vivere così come desidererebbero, cosa che può accadere invece nella maggior parte delle persone che non sono affette da Parkinson o da altre malattie. Quindi questo genera in tante persone un senso di frustrazione, di debolezza, di perdita di autostima e anche di chiusura sia nella società che all'interno della sua famiglia. Quindi, spinti un po' da questa osservazione, che poi ovviamente si potrebbe ulteriormente approfondire, abbiamo cercato di mettere al servizio un qualcosa che noi riteniamo possa proprio rispondere a queste necessità che i pazienti hanno, cioè di recuperare autostima e capacità di essere inseriti in una società e in una famiglia. E siamo partiti dal teatro perché riteniamo che il teatro possa essere una forma artistica che possa aiutare sensibilmente le persone a recuperare l'autostima nelle proprie capacità, la capacità di relazionarsi con gli altri e la capacità anche di saper muovere il proprio corpo all'interno di uno spazio. E per questo abbiamo creato questi laboratori di cui lei faceva menzione, in cui insegniamo ai pazienti la recitazione teatrale attraverso degli attori di teatro, dei registi di teatro di una compagnia teatrale di Roma che si chiama Clessidra. E questi laboratori si svolgono sia a Pozzilli che a Roma da svariati anni con direi dei discreti successi, sia in termini di recitazione teatrale ma soprattutto in termini di controllo della malattia delle persone che partecipano a questi laboratori. Professor Ruggeri, parleremo naturalmente anche di terapia che per il Parkinson e soprattutto per il Parkinson deve essere proprio cucita addosso al paziente. Come vede questi laboratori? Beh, i laboratori sono veramente interessanti e fantastici dal punto di vista anche scientifico, perché vede, entrare nel corpo di un altro attraverso la recitazione, se un parkinsiano vuole fare Otello deve cambiare la propria modalità di movimento, perché Otello era un'altra cosa rispetto a lui, e in quel momento si muove perfettamente o quasi. Quindi in questa maniera capisce che utilizzando sistemi differenti da quella che è la sua modo di muoversi quotidiano, riesce a muoversi anche molto meglio. Ma questo qui è semplicemente l'aspetto, così diciamo, di organizzazione del movimento. Certo, la terapia ormai è tanta, è forse anche talmente complessa e difficile che non è più in mano ai neurologi che non sono specialisti della malattia di Parkinson. Bisogna seguire il paziente dall'inizio della malattia praticamente fino per anni, ecco. Perché? Perché bisogna programmare i tempi di somministrazione dei farmaci, bisogna programmare quanto dare i farmaci e quali mantenere ancora dentro la vetrina dei farmaci per darli poi successivamente quando la situazione peggiora. Ma comunque, come ha detto giustamente lei, bisogna assolutamente cucirla sul paziente, e questo vuol dire conoscere il paziente molto bene. Quindi bisogna avere un paziente che capisca che deve essere seguito dallo stesso gruppo, ma non perché vogliamo catturare i pazienti, ma proprio perché sappiamo di lui che questo farmaco gli fa bene, quest'altro non tanto, questo qui gli dà più autonomia nell'arco della giornata, quando impostare un'altra terapia dalle 8 alle 10 e quando metterne un'altra dalle 10 a mezzogiorno, o quando ancora seguirlo durante la notte perché non dorme. Sono terapie complesse che vengono fatte più facilmente da ricoverati. Questo è vero, però siccome se ormai è difficile ricoverare una persona, devono essere fatti assolutamente con l'aiuto del caregiver, che poi sarebbe la persona che gli sta vicino, che lentamente impara a capire quando va bene, quando va male, quando bisogna dare il farmaco, quando non bisogna darlo. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. 800 24 00 24, a tra poco. E siamo tornati insieme, in linea abbiamo Stefano. Stefano, benvenuto. Buongiorno. Stefano, tu stai frequentando uno dei laboratori di cui il professor Ruggeri e il dottor Modugno ci hanno parlato, sì. Quindi reciti, ti è capitato già di fare anche Otello? Quasi. Quasi. Che benefici hai ottenuto? Benefici tantissimi. Mi sa che dobbiamo richiamarti perché abbiamo un disturbo nella linea, ma adesso dalla regia Stefano ti richiamano. Invece, dottor Modugno, io vorrei aprire una piccola parentesi prima di ripristinare il collegamento con Stefano sulla dieta. Quanto è importante? C'è una dieta protettiva? La domanda a questo punto è sciocca, ma è una dieta che invece deve seguire il paziente affetto da Parkinson? Allora, il consiglio dietetico principale è quello di limitare il più possibile le assunzioni di proteine animali, come per esempio quelle fornite dalla carne e dai formaggi, ma limitare significa non utilizzarle affatto, ma semplicemente evitare per esempio delle mega abbuffate oppure cercare, qualora si sia in marcato sovrappeso o si abbia una chiara alterazione dopo l'assunzione del passo, della risposta alla terapia farmacologica, allora in quel caso cercare di interferire il meno possibile con la terapia farmacologica, quindi se si era abituati a mangiare a pranzo una bistecca molto molto grande, sarebbe consigliabile per esempio spostare la bistecca all'ora di cena e mangiare qualcos'altro all'ora di pranzo. In sostanza il consiglio dietetico principale è quello di mangiare bene e di tutto, come consigliano i migliori dietologi, sempre cercando di avere cura sulla limitazione dell'apporto calorico. Francesco, non eccedere. Francesco, tu stai seguendo una dieta? Sì, io seguo bene o male le indicazioni che... Beh, dico bene o male perché non sempre le indicazioni del dottor Molugno. Ti sentiamo un po' male, devi parlare ecco, più forte. Sentite? Sì, adesso sì. Io seguo bene o male le indicazioni del dottor Molugno e sì, seguo una dieta cercando di limitare al minimo indispensabile le proteine animali. Professor Ruggeri, una domanda più ampia. C'è una dieta, uno stile alimentare che protegge il nostro cervello? Beh, diciamo che non è... Ma in senso generico sì, certo, la dieta deve essere sempre una dieta normocalorica, nel senso che non deve dare pesantezza alla persona e poi deve essere modificata a seconda se c'è un colesterolo alto, se c'è questa persona abbia un diabete, abbia un'ipertensione, questa è la cosa principale. Per il paziente parkinsoniano soprattutto quello magari di usare un maggior quantitativo di carboidrati, sarebbe la pasta all'ora di pranzo, e tutte quante le proteine a sera, ma le proteine comunque non possono essere tolte dalla dieta per semplice ragione che soprattutto le persone parkinsoniane che non sono giovanissime non sono in grado di produrre proteine o le producono male, quindi è molto meglio che le prendano dall'alimentazione. E noi abbiamo ripreso Stefano. Stefano? Sì, sono qui. Ecco, adesso ti sentiamo meglio. Come sta andando la tua esperienza artistica? Hai notato dei miglioramenti? Sì, sicuramente ho notato dei grossi vantaggi perché con le varie metodiche, con l'assistenza di validi operatori si riesce a lavorare molto, diciamo, sul lato emozionale del paziente. Che e cos'è che proprio quello, io vorrei che tu provassi a raccontarmi proprio il vantaggio che ti ha dato la frequentazione di questo corso. Che cosa prima non riuscivi a fare o ti creava problemi a fare che adesso invece riesci a vivere meglio? Ma diciamo nel mio caso verte tutto sull'aspetto psicologico emotivo. E di conseguenza se da un lato di fisico, pur avendo la mia patologia, ho avuto un esordio 10 anni fa e sono abbastanza ancora efficiente, tra virgolette, sotto l'aspetto del movimento e di tutto quanto quello che comporta questa patologia. Perciò è stato più un curare l'aspetto interiore che mi ha motivato grazie all'insistenza del dottor Modugno che da tempo mi chiedeva di partecipare a questi corsi. Dottor Modugno, lei crede molto in questi corsi, mi sembra che sia un modello che dovrebbe essere esportato, no? Oltre che a Pozzilli, a Roma, un po' in tutta Italia, è così, no? Sì, fortunatamente l'idea non è originale nostra, ma è un qualcosa che si sta svolgendo un po' in giro per il mondo da svariati anni, magari non sul parkinsoniano, ma su pazienti affetti da patologie psichiatriche, per esempio. E la cosa bella è che proprio recentemente c'è stato un convegno a Milano che trattava tutti gli approcci complementari alternativi al Parkinson che attualmente stanno prendendo piede un po' in tutto il mondo e sono presenti in Italia, soprattutto in regione Lombardia, e approcci che prevedono l'utilizzo del teatro, della danza, dello yoga, arti marziali e varie altre discipline come la musica, eccetera, eccetera. E sicuramente quello che si evidenza nei pazienti parkinsoniani è che una volta che la malattia si manifesta nella persona e nella famiglia, questo provoca delle alterazioni quasi ineluttabili che portano, come dicevo prima, alla chiusura del paziente nei confronti di quello che era il suo ruolo nella società e un po' uno spegnimento lento. Immotivato in realtà, perché la patologia non comporta questo, è come se ci fosse dell'altro che noi aggiungiamo, che la società o la famiglia o il paziente stesso aggiunge alla malattia. Quindi dobbiamo cercare di ottimizzare e tirare fuori tutto quello che c'è di residuo, perché non è poco. È per questo che sicuramente credo molto in quello che stiamo facendo. Professor Ruggeri, abbiamo un paio di minuti, anzi un minuto e mezzo alla chiusura di trasmissione. Io vorrei anche dare qualche indicazione ai familiari dei pazienti, no? Noi abbiamo dedicato una puntata sull'Alzheimer, abbiamo insieme a Pupi Avati, partendo dal suo film Una sconfinata giovinezza, abbiamo proprio cercato di trovare le parole e anche tirare fuori la fatica da parte delle persone che assistono un malato di Alzheimer. Ci troviamo di fronte ad un'altra malattia, ma sicuramente il ruolo dei familiari è importante. Come si possono sostenere, educare, aiutare a stare vicino in modo, no, in modo efficace al paziente? Beh, io credo che prima cosa dovrebbe essere aiutato la persona che aiuta il paziente parkinsoniano, perché si è scoperto che la maggiore quantitativa di depressione non sia nella malattia di Parkinson ma sia nel caregiver, ossia quel quale l'accompagna. La cosa più importante sarebbe che venisse a fare dei corsi da noi giù a Pozzilli. Noi siamo estremamente pronti a insegnare alle persone che aiutano i pazienti parkinsoniani cosa è un farmaco, che cosa è la malattia, che cosa è tutto. Ossia, non chiudiamo le porte assolutamente a nessuno affinché impari bene a trattare il paziente, sia dal punto di vista psicologico sia dal punto di vista farmacologico. E dal punto di vista psicologico, come ha detto Modugno, è una cosa importantissima che si diano una meta, una cosa da raggiungere, perché se no si prendono le medicine ed è come fare il pieno della macchina senza poi mettere in moto il motore. Grazie al professor Stefano Ruggeri, al dottor Nicola Modugno, a Francesco D'Antuono e a Stefano. Grazie a voi che ci avete seguito. Io vi auguro una buona giornata, vi do come sempre appuntamento a domani.